Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. 8 persone trovate vive sotto la slavina dell'hotel Rigopiano. Tra questi ci sono 2 bambini. I vigili del fuoco parlano con loro. 5 sarebbero stati già tirati fuori. Elicotteri in arrivo con i medici. L'emergenza intanto non si ferma. Situazione critica a Teramo. Ancora decine di comuni e frazioni isolati tra Abruzzo e Marche. Ritrovati i corpi di 2 dispersi. Per Donald Trump il giorno del giuramento. Cerimonia da 200 milioni di dollari. Attesa per il discorso di insediamento del neo presidente americano. Era stato ucciso a 17 anni nel Rio Sanità. Oggi i suoi presunti assassini sono finiti in manette. Gianni Cesarano fu vittima innocente di una sparatoria. Altri tesori archeologici distrutti dall'ISIS a Palmira. Va in pezzi il proscenio del teatro antico della città. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno, @radio24.it se ci volete scrivere. Dunque, in apertura, una buona notizia, sono 8 a quanto pare le persone ritrovate vive sotto la slavina che ha investito l'hotel Rigopiano. Quando lo diciamo, nemmeno noi, e già da ieri, lo sapete se avete seguito le nostre lunghe dirette, non avevamo più alcuna speranza. Siamo in linea con Daniele Morini, che si trova a Penne, dove c'è il centro di coordinamento dei soccorsi. Daniele, eccoci, buongiorno. Sì, eccoci Simone. Proprio sopra le nostre teste in questo momento siamo in grado di vedere ben 3 elicotteri che si muovono freneticamente, atterrano, ripartono. Immagino le rotte, insomma, no? Sono quelle che gli consentono a questi mezzi aerei di arrivare fin sopra l'hotel a Farindola, l'hotel Rigopiano, per recuperare appunto ormai 8 persone. Un'ora e un quarto fa, erano le 11:15 circa, la mobilitazione dei soccorritori qui al palazzetto dello sport di Penne, proprio per questa notizia che è arrivata all'improvviso. Hanno cominciato a parlare i vigili del fuoco e gli altri soccorritori, prima con 5, poi sembrava 6 ed ora 8 persone sotto le macerie. È in corso il recupero proprio di queste persone. La buona notizia nella notizia buona è che almeno 2 sarebbero bambini tra quelli che appunto risultano dispersi. Di questi 8 sopravvissuti che stanno recuperando, almeno 2 sarebbero dei bambini. Ecco, continuano i recuperi, anche in questo momento sta atterrando un elicottero, perché i soccorsi, naturalmente, come avevamo già detto anche ieri sera, sono continuati per tutta la notte. Le squadre si sono alternate, questa notte hanno lavorato su in cima, in fondo alla slavina, al fronte della slavina, circa 140 persone dei vari corpi, dai vigili del fuoco, il soccorso alpino speleologico, guardia di finanza. I primi erano arrivati con gli sci, poi pian piano i mezzi si sono fatti largo, le turbine sono riuscite a rimuovere la neve e quindi la macchina dei soccorsi si è fatta via via sempre più forte e presente nel luogo della sciagura. Ecco, se non ci sono altri dettagli, no, Simone. No, allora al momento, Daniele, non ci sono altri dettagli, altre domande che abbiamo per te. Naturalmente ci serviamo di continuare a collegarci con te nel corso di questa puntata di Effetto Giorno, proprio per avere maggiori dettagli. Intanto forse possiamo andare a Rieti e sentire da Sky la conferenza stampa di, o almeno un passaggio della conferenza stampa di Titti Postiglione, che è il capo delle emergenze della Protezione Civile, che probabilmente sta facendo un punto anche generale sulla situazione, sul quale punto generale andremo anche tra un attimo. Sentiamo la Postiglione. Finanze, Kansas, oltre a fare attività tecnica operativa, fanno proprio questa attività qui di interpretazione e pianificazione degli interventi, quindi nelle prossime ore avremo qualche informazione in più. No, appunto, volevo dire, il fatto di aver ritrovato queste 8 persone, diciamo, aumenta le speranze per eventuali altri dispersi? Noi adesso c'è un po' più di ottimismo? Noi queste speranze le abbiamo sempre avute. Evidentemente, speranze che tutti sappiamo in ogni attività di ricerca e soccorso si affievoliscono via via che passa il tempo, evidentemente. E il fatto oggi di aver avuto conferma che una sopravvivenza fosse possibile è chiaramente un dato importante. Chiaramente un buon segno, sta dicendo. aumentato. Vi dico che dunque questa era Titti Postiglione, capo dell'emergenza della Protezione Civile. L'abbiamo sentita in diretta da Rieti, abbiamo preso l'audio da Sky TG24 che ha raccontato appunto che le speranze evidentemente ci sono. Dunque, prima magari di tornare a Rigopiano anche più avanti nel corso della trasmissione per cercare di capire come stanno procedendo queste operazioni di soccorso, veniamo di fare un punto generale, perché se è vero che la situazione all'hotel Rigopiano, nella frazione di Rigopiano, è questa, ovviamente l'emergenza non è finita in molte parti dell'Abruzzo e delle Marche, ci sono ancora una serie di frazioni isolate, sono state ritrovate anche delle vittime purtroppo. Laura Bettini, buongiorno. Buongiorno, sì, sentiremo poi appunto cosa dice Titti Postiglione rispetto alla situazione generale. Al momento sappiamo appunto che le criticità sono ancora moltissime, c'è il freddo, c'è la neve, c'è il terremoto, la mancanza di corrente elettrica, mancanza di riscaldamento, mancanza d'acqua, i problemi sono tantissimi. Come dicevi, c'è da registrare anche il ritrovamento di due corpi, quello di una persona che era dispersa nel comune di Campotosto, dove ieri invece era stato trovato un sopravvissuto, e l'accertamento della morte di un giovane che era disperso con il padre nel comune di Crognaleto. Siamo più o meno sempre nella stessa zona, del padre però ancora non c'è traccia. I soccorsi oggi ovviamente si sono fatti strada e sono arrivati a raggiungere le frazioni di Acqua Santa Terme, zona Arquata del Tronto, provincia di Ascoli Piceno. Quindi sono stati raggiunti sia una famiglia con due bambini sia un allevatore, erano tutti rimasti isolati da giorni senza né corrente elettrica né riscaldamento. Le persone sono in salvo, purtroppo gli animali invece no, cominciano a morire. La situazione non è diversa nel Teramano, dove i mezzi di soccorso sono arrivati in forze, ma i comuni isolati sono ancora moltissimi, manca anche qui l'elettricità, non da uno, non da due giorni, dice il sindaco Maurizio Brucchi al microfono di Maria Luisa Pezzali, rispondendo a Enel, che diceva insomma i disagi sono contenuti. Sentiamo cosa ha detto infatti. Stamattina ci sono 4 elicotteri, ci sono gatti delle nevi, ci sono motoslitte, c'è tutto un sistema di dispiegamento di forze per andare a raggiungere queste case che sono ancora isolate, questi comuni che sono ancora isolati. L'elenco è lunghissimo, lì alcuni non vogliono lasciare le proprie abitazioni perché hanno gli animali e quindi hanno bisogno di gruppi elettrogeni. Stanotte le abbiamo raggiunte alcune con gli sciatori della Guardia di Finanza, che hanno anche salvato una persona che era rimasta sotto una stalla. Il quadro delle utenze qual è? Ma ieri sera erano 45.000 più o meno ancora in tutto il territorio provinciale. Le criticità maggiori quali sono? C'è una situazione che vi desta più preoccupazione di altre? Adesso raggiungere famiglie che da 5 giorni, oggi il quinto giorno, che sono senza energia elettrica, non come dice il direttore di Enel Tamburri, che ha detto che sono massimo 2 giorni, oggi è il quinto giorno, quindi anche su questo bisognerà dire la verità. Allora, vista questa precisa critica, sempre Maria Luisa Pezzali ha chiesto di fare il punto della situazione a Giuseppe Amoroso, che è responsabile esercizio e manutenzione di e distribuzione, cioè la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche. Sentiamolo. Siamo riusciti a ridurre a meno di 60.000 le utenze ancora disalimentate, e questo grazie al lavoro incessante delle nostre 1.400 persone che hanno lavorato tutta la notte per effettuare attività di ripristino degli oltre 300.000 chilometri di linee interessate dai danneggiamenti dovuti a questa eccezionale ondata di maltempo. Con il lavoro di oggi a che quota si arriverà a fine giornata? Contiamo di arrivare a meno di 30.000. Speriamo di dare un bel segnale ai nostri clienti già da domani. Le aree dove si concentrano di più i disagi quali sono? Sono ancora concentrate purtroppo nel Teramano. Il sindaco di Teramo ai nostri microfoni ha detto i giorni di interruzione ormai sono 5, non solo 2, come ha detto Enel. A voi cosa risulta? In realtà in alcuni casi sì, dipende dalle utenze. Abbiamo avuto purtroppo diversi giorni, queste successive ondate di maltempo hanno prodotto il susseguirsi di guasti anche in aree nelle quali era stato, diciamo, ripristinato sin da subito il servizio. E quindi, insomma, sì, davvero ci sono alcuni che sono da 5 giorni senza elettricità. Per rimuovere la neve e poi consentire quindi di raggiungere anche questi, le centrali Enel, le centraline Enel che restituiranno la corrente a questi paesi, si sono mossi davvero mezzi da tutta Italia, lo sappiamo, dalle Alpi, Trentino, Bolzano, tutti hanno fatto pervenire tutti gli strumenti, tutti i mezzi che avevano. Per dare un'idea della mobilitazione, vi dico, a me ha colpito questa cosa, che ci sono anche 2 squadre specializzate degli aeroporti di Roma che hanno portato delle turbine che normalmente vengono utilizzate a Fiumicino e Ciampino, dove certo non hanno mai visto questi accumuli di neve, ma sono lì pronte all'uso nel caso ci fosse necessità. Simone. E grazie dunque a Laura Bettini. Ovviamente la nostra attenzione resta concentrata su quello che sta succedendo all'hotel Rigopiano, dove, lo ripetiamo per chi si fosse messo in collegamento solamente adesso, la notizia arrivata ed è stata diffusa l'ultima dai carabinieri è che sotto le macerie dell'hotel, da quel che abbiamo capito, nel solaio ci sono 8 persone vive. Tra queste persone, tra l'altro, ci sono 2 bambini. Le notizie della mattinata sono state in evoluzione, perché questa mattina sembrava che fossero 6, almeno questa era la notizia che era stata data dai vigili del fuoco, e poi siamo arrivati a 8 nelle ultime dichiarazioni dei carabinieri proprio di pochi minuti fa. Naturalmente attendiamo aggiornamenti, torneremo a collegarci con Penne, dove c'è il centro operativo, quello dal quale si stanno coordinando i soccorsi, dal quale stanno decollando gli elicotteri per andare a soccorrere queste persone. Nel frattempo però andiamo a Roma, dove il governo si è riunito per cercare proprio di affrontare tutto quanto, cercare di affrontare anche l'emergenza. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così, terminato il CDM dopo 1 ora e mezzo, Simone, il Consiglio dei Ministri ha affrontato l'emergenza terremoto, sono stati stanziati 30 milioni per la primissima emergenza, con la possibilità che vengano stanziati come risposta a richieste pervenute dalle regioni e dai comuni in queste 48 ore, soprattutto per lo sgombero della neve. Il Consiglio dei Ministri inoltre ha avviato una discussione sulle misure da stanziare in futuro e quindi si parla di alcuni miliardi in aggiunta ai 4 miliardi già previsti nella legge di bilancio. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, precisa poi che tutte le richieste delle regioni saranno esaudite. La stessa ministra chiarisce sulle polemiche riguardo all'utilizzo dei fondi raccolti con gli SMS solidali mediante il numero 45500. Nessuna compagnia telefonica ci lucra, assicura Finocchiaro. La raccolta fondi da parte della Protezione Civile è disciplinata da un protocollo di intesa preesistente agli eventi sismici di questi mesi. Allora, ricordiamo, stanziati 30 milioni per la primissima emergenza dal Consiglio dei Ministri e poi si parla ancora di alcuni miliardi in aggiunta ai 4 miliardi già previsti nella legge di bilancio in futuro. A te, Simone. E grazie dunque ad Elisabetta Fiorito, almeno per il momento questi gli aggiornamenti. Arrivano intanto notizie più dettagliate che vengono diffuse dall'hotel Rigopiano. Le persone che sono state trovate vive al momento sono, come si diceva, 8, si tratterebbe di 3 donne, 3 uomini e appunto 2 bambini. Sicuramente è stata estratta dalle macerie, dai detriti e dalle macerie, una donna, e sono state estratte una donna e una bambina poco dopo le 12:30. Sono rimaste 43 ore sotto questa enorme massa di neve e di detriti. Stiamo continuando a seguire la cosa e torneremo a collegarci con la zona per avere evidentemente maggiori dettagli su quello che sta succedendo. Intanto restiamo parzialmente sul tema per occuparci della gara di solidarietà che viene attivata in queste ore, che si è attivata anche per il terremoto, tra raccolte fondi private e SMS della Protezione Civile. Finora poco o nulla è arrivato ad alleviare le difficoltà dei terremotati, e questa è una polemica che è stata sollevata da molti giornali. Ma che fine hanno fatto quelle donazioni? Siamo andati a vederlo. 2.000 raccolte fondi per i terremotati del centro Italia, già 28 milioni raccolti grazie invece agli SMS, ma finora poco o nulla è arrivato, come ha denunciato il sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci. Perché? Che fine hanno fatto quelle donazioni? In realtà è necessario distinguere tra la raccolta della Protezione Civile via SMS e le migliaia di collette e raccolte attivate da Onlus e associazioni private, di cui non si sa quante siano arrivate effettivamente a destinazione. bloccata, ad esempio quella del Club Alpino Italiano, altre come quella della provincia di Trento sono andate a buon fine. Sui possibili abusi monitora l'Agenzia delle Entrate, non un vero e proprio ente ad hoc, visto che l'Agenzia per il Terzo Settore è chiusa da 5 anni e la nuova legge sul terzo settore del 2016 non prevede un ente simile, come avviene invece in Germania, Inghilterra, Francia. Diverso il discorso per i fondi raccolti via SMS dalla Protezione Civile. Si tratta di 28 milioni di euro fermi sul conto aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato. Il denaro serve per ricostruire, non per gestire l'emergenza, ha precisato ieri il Dipartimento. La ricostruzione è quindi partita? No. A parte l'impedimento creato dal maltempo e dalle nuove scosse, l'iter burocratico prevede diversi passaggi. Insomma, i soldi sono bloccati. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo dunque alle altre notizie, è il giorno della cosiddetta inauguration, sentiamo. Giornata X a Washington, Donald Trump, dopo aver visitato ieri il cimitero di Arlington, dopo aver avviato già le celebrazioni per la sua inauguration, dopo aver partecipato a un concerto ieri notte nella spianata che dall'obelisco arriva fino al Lincoln Memorial, giurerà fra poche ore fedeltà alla Costituzione, diventerà il nuovo presidente degli Stati Uniti. Sentiamo un suo intervento di ieri proprio al concerto pre-inaugurale. What we've done is so special. All over the world they're talking about it, all over the world. And we are going to make America great again, and I'll add, greater than ever before. Thank you. Quello che abbiamo fatto è incredibile, ha detto Trump, in tutto il mondo ne stanno parlando, in tutto il mondo. Da domani lavoreremo insieme per far tornare l'America alla sua grandezza, per renderla ancora più grande. Riportare l'America alla grandezza del resto è stato lo slogan di Donald Trump. Fra poche ore arriverà alla Casa Bianca, si incontrerà con Barack Obama per un caffè, dopodiché insieme alle 10:30 del mattino, alle 4:30 del pomeriggio ora italiana, andranno al Campidoglio per la solenne cerimonia inaugurale. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Washington. E non solo Mario Platero, su questi temi torneremo a sentirlo come sempre alle 13:45, ma vi dico anche che qua su Radio 24 dedicheremo uno speciale all'inauguration di Trump e vi faremo sentire in diretta tutto quello che sta succedendo. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi riprendiamo dall'Abruzzo, riprendiamo dall'hotel Rigopiano, dove si sta cercando di tirare fuori le persone che sono state trovate vive dopo oltre 40 ore all'interno di quelli che sono i resti sostanzialmente dell'hotel. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia per una trasmissione che anche oggi si sta trasformando sostanzialmente in una trasmissione monografica su quello che succede tra Abruzzo, Marche, Umbria, un pezzo del Lazio, ma soprattutto l'Abruzzo e soprattutto l'hotel Rigopiano, dove, come abbiamo detto in apertura, sono state ritrovate 8 persone vive tra le macerie dell'hotel. Il punto ancora con Daniele Morini. Daniele, eccoci, vai. Sì, Simone, stiamo raccogliendo proprio in questo momento una testimonianza della Guardia di Finanza, stanno raccontando proprio come hanno raccolto in questo momento, scusami ma c'è un po' di concitazione. Simone, scusa, sì. Tanto, eccomi qua, mi allontano un attimo. Non riesci a mettere il telefono sotto il finanziere per sentire che cosa racconta, vediamo un attimo. Ci sono i rumori degli elicotteri che rendono sicuramente difficile la comunicazione, lo stavo ascoltando appunto, lui raccontava un po' dei dettagli appunto, no? Loro nel parlare con le persone che stavano sotto le macerie, sotto la neve, si stava dicendo che avevano trascorso naturalmente 2 notti drammatiche, che però sono stati rimbrancati dal fatto di riuscire a parlare con loro, insomma, e tenersi in contatto. Le condizioni, insomma, loro, per quello che è possibile sapere, naturalmente prima di un referto medico, di un controllo medico, parlava di condizioni abbastanza buone, almeno di alcuni con cui era riuscito a scambiare qualche parola. Lui sta raccontando altri dettagli, insomma qui c'è grande fermento per questa notizia. Prima 6, poi 8 persone Ritrovate vive. Allora io, Daniele, intanto ti ringrazio. Mi riservo di richiamarti ancora. Ti lascio lavorare nel frattempo a raccogliere queste voci, a cercare di capire che cosa sta succedendo. Vedremo magari se anche riuscirai a portarci qualcuno al microfono per farci raccontare un po' come stanno andando le cose. Intanto, come si diceva, l'emergenza è più larga, no? di quel che stiamo raccontando. Naturalmente il punto di emergenza principale è quello dell'hotel Rigopiano, di tutta quell'area dell'Abruzzo, ma le cose sono molto gravi e lo abbiamo raccontato naturalmente anche nei giorni scorsi, anche in alcune aree delle Marche, a partire dalla provincia di Ascoli Piceno, ad Acquasanta. Siamo in linea col sindaco Sante Stangoni, che torna con noi. Sindaco, bentornato, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno. Allora, le cose mi sembra che vadano meglio, tra l'altro sono state salvate varie persone nelle frazioni nei dintorni di Acquasanta, no? In questo ore. Stamattina è arrivata la bella notizia che i vigili del fuoco hanno salvato i 6 anziani che erano nella roulotte da 3 giorni senza luce e senza nulla, quindi c'è già quella una notizia importante, però adesso abbiamo ancora tante altre persone che sono in queste frazioni molto lontane, dove anche la turbina ha difficoltà ad arrivare. Anche la turbina ha difficoltà ad arrivare in quelle frazioni? Sì, perché ci sono slavine, ci sono alberi crollati, tralicci dell'Enel, quindi purtroppo vanno molto lentamente. Vanno molto lentamente. Ha un'idea, sindaco, di quanta gente c'è ancora bloccata nelle case che non riesce ad uscire, e siete riusciti a contattarli? Purtroppo abbiamo 18 persone sicuramente, e purtroppo a queste 18 persone non riusciamo a parlare. Non riuscite a parlarci perché naturalmente è finita l'energia elettrica, non sono collegati. No, poi i telefoni anche non sono collegati, quindi è scarico e molti sono anziani che hanno anche problemi di salute. E hanno anche problemi di salute evidentemente, quindi non siete in contatto, non ci si arriva nemmeno con gli elicotteri, avete chiesto adesso, aiuto? Adesso i vigili del fuoco, l'esercito, protezione civile sono già in volo per raggiungere queste aree con gli elicotteri, sperando di poter scendere e quindi risolvere il problema, speriamo. Allora, sindaco, io intanto la ringrazio, ovviamente le auguro un buon lavoro, ci riserviamo magari nell'arco della giornata di provare a risentirla e vedere un attimo come stanno andando le cose anche da quel punto di vista, se siete riusciti a raggiungere queste frazioni che sono ancora isolate. Tenete presente che solo nelle Marche sono 35 ancora le frazioni che non si sono raggiunte, che non sono state raggiunte. Nella giornata di oggi, al di là delle buone notizie, almeno parziali, che arrivano dall'hotel Rigopiano, si segnalano altre vittime, sono stati 2 persone che erano state date per disperse, sono state ritrovate morte tra le Marche e l'Abruzzo, anche se, come dicevamo, da Acquasanta appunto sono state anche salvate delle persone. Possiamo forse andare con qualche voce ad Amatrice, dove le difficoltà si sono fatte sentire anche là, evidentemente, per quanto ovviamente, essendo Amatrice in sostanza completamente evacuata, senza più persone che ci vivono, come dire, questi problemi si sono questo tipo di problemi non si è verificato. Oggi è stata una giornata particolare ad Amatrice perché si è svolto il sorteggio per l'assegnazione delle prime abitazioni provvisorie. Il nostro Vincenzo Miglietta ha sentito che è inviato ad Amatrice, che stiamo tra l'altro cercando di raggiungere, anche là le comunicazioni non sono per nulla facili, e il nostro Vincenzo Miglietta ha raccolto la voce del sindaco Pirozzi, sentiamolo. In tempo di guerra servono procedure di urgenza, non servono procedure standard. In tempo di guerra bisogna decidere, chi decide affiancato dalle migliori eccellenze italiane, perché stiamo in ritardo sullo smaltimento delle macerie, sugli abbattimenti, su tutto quello che è la vita quotidiana. Oggi è importante dare una risposta alla vita quotidiana, perché siamo stressati, 4 terremoti, la gente ha fiducia nel futuro, ma oggi vive di presente. Così dunque il sindaco Pirozzi, probabilmente rispondendo anche parzialmente alle polemiche, perché l'assegnazione delle case avviene appunto con un sorteggio. Vincenzo Miglietta ha raccolto anche la voce della signora Maria, che è una delle assegnatarie di queste abitazioni provvisorie. Sentiamo. Signora Maria, è felice per questa assegnazione? Tanto. Quale casa le è capitata di metratura? Quelle da 40, perché noi siamo due persone. E c'ho mio nipote che sta a 5 km da qui e sono felice, insomma sono contenta. In tutti questi mesi come si era organizzata? Allora prima sono stata in un camper, poi in un container, adesso stavo a 20 km da casa. E ieri con una bella casetta. Adesso sono due giorni che dormo sotto Montreale, se conosce dove sta quel grande capannone. E così finalmente posso ritornare a Matrice, perché casa mia verrà demolita. Luca Ceriscioli, presidente delle Marche, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Pronto? Sì, ci sente Ceriscioli? Sì, sì, mi sento. Eccoci qua. Ci risultavano stamattina ancora 35 frazioni completamente isolate. Abbiamo parlato col sindaco di Acquasanta che ha detto ci sono 18 persone che non sappiamo nemmeno che fine abbiano fatto perché sono nelle case e non riusciamo a raggiungerli perché non c'è il telefono, non funziona, non c'è energia elettrica e così via. Ci dà un quadro generale della situazione? Sì, il quadro, mentre in altre province si sta risolvendo, nel senso che a Macerata sostanzialmente sono state raggiunte tutte le frazioni, e nell'Ascolano ancora ci sono frazioni isolate, nel senso che non ci si riesce ad arrivare, e alcune dove ancora non è arrivato nessuno. L'impegno di queste ultime ore è proprio non solo nel lavoro diciamo, per liberare tutte le frazioni isolate, comunque raggiungerle tutte quante, a collaborare come al solito grazie al DICOMAC, alla Protezione Civile Nazionale, le forze in campo tipo militare ed altro, in modo che almeno in ogni frazione qualcuno vada a vedere come stanno le persone, possa portare quelli che possono essere generi di prima necessità e via dicendo. Quindi l'obiettivo è proprio quello di andare a toccare tutti quanti nel corso di queste ore. I mezzi bastano, Ceriscioli? I mezzi, qui nelle Marche l'estensione del fenomeno è enorme, la neve è caduta abbondantissima in tante parti, è chiaro che una cosa è l'emergenza più immediata, cioè la priorità data in questo caso raggiungere zone isolate, e un altro è quella che è l'esigenza complessiva, perché poi sono tantissime le realtà che hanno bisogno di una risposta di essere raggiunta, quindi il quadro che avevo questa mattina era che insomma, ci fossero a disposizione altri mezzi, certamente aiuterebbe ad affrontare complessivamente tutta la situazione. Fino ad oggi abbiamo visto che tutto ciò che era disponibile è stato inviato, impiegato, utilizzato e via dicendo. Quindi siamo alla macchina nazionale, quello che è stato in grado di mettere in moto, di offrire, noi l'abbiamo accolto e destinato nei luoghi che avevano maggior necessità. Si è fatto un'idea di che tempi ci potrebbero essere per riuscire a raggiungere tutti? Io credo che raggiungere, prima che il sole di oggi tramonti, io sono convinto che tutti quanti verranno almeno raggiunti. E liberare le strade ovviamente può metterci più tempo, perché per capirci, quando parliamo di liberare una frazione possono essere anche 10-12 ore di lavoro dei mezzi, naturalmente. La ringrazio, grazie Ceriscioli per essere stato con noi e per questo aggiornamento. Le auguro una buona giornata ed evidentemente un buon lavoro. Cambiamo anche un po' argomento e tocchiamo altri temi, a partire da Napoli, dove sono stati arrestati, come già vi dicevamo nei titoli, i presunti responsabili della morte di un ragazzo di 17 anni, lo ricorderete. In un primo momento si era ipotizzato che potesse essere tra gli obiettivi dell'agguato che gli costò la vita la notte del 6 settembre 2015 nel rione Sanità di Napoli. Invece il 17enne Gennaro Cesarano con la criminalità non aveva nulla a che fare, come aveva ripetuto più volte il padre. L'inchiesta ha confermato che Jenny fu la vittima innocente di una sparatoria all'impazzata scatenata nell'ambito di uno scontro tra bande rivali della Camorra. 4 le persone arrestate, accusate di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione illegale di armi, reati aggravati dal metodo mafioso. Oggi vince la verità, ha commentato il padre Antonio Cesarano. Chiediamo giustizia per Jenny, che era un bravo ragazzo. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Napoli, De Magistris, che ora dice mai più vittime innocenti della criminalità organizzata. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Walter Fortunato è il direttore sanitario dell'ospedale di Pescara. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Fortunato. Voi state, sono arrivate da voi alcune delle persone che sono state salvate da Rigopiano? Noi siamo stati preallertati da Rigopiano perché sono state estratte vive 6 persone. Che stanno per arrivare al nostro ospedale. Ovviamente noi siamo tutti mobilitati in attesa di riceverli. Ok, quindi ci dà la notizia che 6 persone sono state già estratte appunto dall'hotel Rigopiano. Sì, quindi appena avremo il quadro della situazione, delle loro condizioni, provvederemo a informare con dei bollettini sanitari tutta la stampa. Ok, quindi avete già ricevuto segnalazioni di qualche tipo da Lavi, hanno detto in che condizioni sono? No, le stanno portando con gli elicotteri, ma anche le comunicazioni sono un pochino difficoltose tra qui e lì, quindi appena arrivano noi li cataloghiamo, li identifichiamo e li stabilizziamo, dopodiché provvederemo a dare comunicazione alle famiglie e alla stampa. La ringrazio, grazie Walter. Prego. Fortunato, direttore sanitario dell'ospedale di Pescara, che come capirete in questi minuti, anche piuttosto concitati, aveva poco da dirci, però è importante anche raccogliere queste informazioni. Ci fermiamo, c'è una pausa per la borsa, come sempre, e poi ci ritroviamo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli. 8 persone sono state trovate vive sotto la slavina dell'hotel Rigopiano, quando ormai praticamente non c'erano più speranze. Continuiamo ad avere speranze, dice la Protezione Civile. 6 persone verranno portate all'ospedale di Pescara. Di queste persone sono 3 sono uomini, 3 sono donne e 2 sono bambini. I vigili del fuoco hanno parlato con loro, sono state tirate fuori, come avete sentito poco fa, 6 persone e gli elicotteri sono in arrivo. L'emergenza però non si ferma, la situazione continua a essere critica a Teramo, ancora decine di comuni e frazioni isolati tra Abruzzo e Marche, proprio nella provincia di Teramo 60.000 persone senza energia elettrica, sono stati ritrovati i corpi di 2 dispersi. Per Donald Trump è il giorno del giuramento, cerimonia da 200 milioni di dollari, attesa per il discorso di insediamento del neo presidente americano, a questo Radio 24 dedicherà uno speciale. Era stato ucciso a 17 anni nel rione Sanità, oggi i suoi presunti assassini sono finiti in manette. Jenny Cesarano fu vittima innocente di una sparatoria. La borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo per una puntata, come già vi dicevamo, che è diventata quasi una puntata monografica, inevitabilmente, per raccontare quello che sta succedendo nelle aree del centro Italia colpite dal maltempo e soprattutto quello che sta succedendo all'hotel Rigopiano. La notizia di questa mattina è che sono state ritrovate 8 persone vive dopo oltre 40 ore. Di queste persone 6 sono adulti, 3 donne e 3 uomini, e ci sono 2 bambini. Una bambina, riferisco alcuni media, sarebbe stata portata all'ospedale dell'Aquila, altre 6 verranno portate all'ospedale di Pescara. Non sappiamo che cosa succeda dell'altra, cosa debba succedere dell'altra persona. Stanno uscendo dei nuovi dettagli su questo. Soccorritore della Guardia di Finanza racconta che probabilmente, oltre ad accendere, hanno acceso un fuoco, e probabilmente una donna e una bambina tra le persone ritrovate avevano qualcosa da mangiare con loro. Viene diffuso anche il dialogo tra l'elicottero dei vigili del fuoco e i vigili del fuoco che stavano scavando appunto tra le macerie. Sono vivi, stiamo lavorando con i colleghi della Toscana e del Piemonte per tirarli fuori, ma sono vivi. E questa è la prima comunicazione. L'elicotterista dice: ritrovati 6 vivi, grazie caporeparto, sto risalendo. Questa era la prima comunicazione, poi si è appreso che altre 2 persone sono state ritrovate vive. E restiamo su queste zone dell'emergenza e poi tra un attimo torneremo a collegarci con Penne e andiamo ad Amatrice con Vincenzo Miglietta. Siamo riusciti a prendere la linea anche là. Prendere la linea è piuttosto complicato. Vincenzo, buongiorno, eccoci. Sì, buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori. Complicato per quanto riguarda i collegamenti telefonici, forse più facile quelli invece stradali. Devo dire che arrivando da Roma il lavoro delle forze dell'ordine e della protezione civile è stato eccezionale, perché si arriva qui ad Amatrice abbastanza facilmente. La Salaria, il bivio poi all'altezza di Casale Nibbi, la cosiddetta Romanella, che ricordiamo è una strada abbastanza abbastanza in passato utilizzata solamente dagli agricoltori, che in tempi rapidissimi è stata riasfaltata per consentire di arrivare qui ad Amatrice. Vi parlo dal centro operativo dove tra l'altro lavorano fianco a fianco, e questo è emblematico dello sforzo comune, personale della Municipale di Milano e personale della Municipale di Roma. Il collegamento di oggi è importante soprattutto, Simone, ma lo avevi già anticipato durante la trasmissione, per ricordare l'assegnazione di questa mattina delle prime casette ai cittadini di Amatrice. Vi è stato un sorteggio davanti al notaio che ha consentito di assegnare 19 alloggi da 40 metri quadri, 5 da 60 e 1 da 80 metri. È abbastanza simbolico, perché ci rendiamo conto, 25 casette rispetto alla popolazione di Amatrice è un primo passo, ma lo abbiamo anche ascoltato, vi è stato l'allarme lanciato dal sindaco di Amatrice Pirozzi: la burocrazia di fatto sta bloccando un po' tutto, si poteva fare di più e non è stato fatto. Simone. E grazie dunque al nostro Vincenzo Miglietta in diretta da Amatrice, e siamo di nuovo in collegamento con Daniele Morini da Penne, dove, lo ricordiamo, si stanno concentrando tutti quelli che stanno prestando soccorso, diciamo è il centro di coordinamento di chi presta soccorso all'hotel Rigopiano. 8 persone vive. Daniele, gli aggiornamenti, eccoci. Sì, eccoci qua. Abbiamo con noi Roberto Reficini, che è direttore dell'ufficio rischi, direttore dell'ufficio nazionale rischi della protezione civile. È stato uno di quelli che hanno coordinato qui al palazzetto un po' il lavoro di questi giorni. Roberto, qual è la situazione? Insomma, le speranze si sono riaccese da un'ora e mezzo circa, da quando sono iniziate ad arrivare le notizie sulle persone che venivano salvate da quel cumulo di macerie e neve. Sinceramente le speranze non le avevamo mai perse, perché questo è stato il motore che ci ha consentito di affrontare una situazione difficile. Abbiamo lavorato in maniera coordinata e soprattutto, diciamo, abbiamo avuto la possibilità di contare sulla collaborazione di chi conosceva bene il locale, che ha guidato in questo modo le squadre dei vigili del fuoco e degli altri soccorritori. Ecco, è un lavoro di squadra, mai come in questo caso è giusto dirlo, perché sono tante le forze in campo, le forze dell'ordine, insomma tutti cercano di coprire il proprio tassello per arrivare al risultato. Sì, confermo, tutte queste cose possono essere fatte proprio perché c'è un impiego armonico, coordinato di tante forze, e quindi noi ci siamo preoccupati appunto di favorire questo coordinamento e di renderlo possibile. Ecco, adesso dove Daniele, Daniele, puoi chiedere se ci sono speranze di trovare anche altre persone vive? Allora, la domanda da studio è: ci sono speranze, Oreficini, di trovare altre persone vive? Le forze dell'ordine dicono di sì, almeno da quello che sentiamo nelle interviste in questi minuti. Beh, noi lavoreremo intensamente perché questa speranza non la perdiamo, quindi quello che è accaduto questa mattina speriamo che si ripeta anche nel corso della giornata. Grazie Oreficini, grazie mille, buon lavoro, lo lasciamo di nuovo al suo lavoro, grazie mille Roberto Oreficini. Simone, io poco fa, quando appunto in maniera concitata ci siamo lasciati, stavamo parlando con un gruppo di colleghi, con Marco Bini del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Era in una delle squadre che lui personalmente, in una delle squadre che ieri hanno fatto i primissimi recuperi, e oggi sta seguendo i suoi uomini che sono ancora lì per gli ultimi recuperati, le 8 persone di questa mattina. Ci dava dei dettagli anche emozionanti su quello che stava succedendo. Loro veramente, grazie anche all'aiuto dei cani, delle unità cinofile, sono riusciti a fiutare nel vero senso del termine, arrivare laddove uscivano dalle macerie un po' di fumo, degli odori, dei gas. Sono riusciti, seguendo quelle piste, ad arrivare in questi locali cucina, diciamo, un po' all'interno della struttura dove si erano rifugiate queste persone. Lui ci ha parlato di 3 uomini, di 3 donne e di due bambini. Allora Daniele, io ti ringrazio, grazie per questi aggiornamenti, ci riserviamo di chiamarti nell'arco della giornata. Adesso il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.